questo credo che sia solo l'inizio dell'inchiesta della magistratura su questa vicenda allucinante di San Siro. Purtroppo c'è un'inchiesta della magistratura perché la politica non ha fatto la sua parte, in particolare il comune di Milano, il sindaco, non ha mai voluto ascoltare i cittadini, i residenti di San Siro, i comitati che si battevano per salvare un simbolo di Milano. Sono stati sordi e ciechi di fronte a tutte le proposte che sono state avanzate di questi comitati. Il risultato è che ci siamo dovuti rivolgere alla magistratura per tutelare gli interessi pubblici e l'interesse dei cittadini milanesi che con gli anni, con i loro soldi, hanno creato uno stadio tuttora efficiente. Cioè nessuna autorità pubblica ha detto che lo stadio deve essere demolito, anzi da molte parti si è fatto delle ipotesi sulla ristrutturazione. Peraltro in molte città italiane si sono ristrutturati gli stadi esistenti o si stanno ristrutturando. Per esempio a Genova si sta ristrutturando con una convenzione con le società Genova e Sampdoria, ma la proprietà rimane del comune di Genova. Così mi pare che stia avvenuto e stia avvenendo da tante altre parti. Il caso di Milano è unico. Cioè si è voluto cedere lo stadio che si poteva benissimo mettere a posto perché non ha problemi strutturali, essendo stato fatto il terzo anello nel 90, quindi non 2000 anni avanti Cristo, ma nel 1990 in occasione dei mondiali di calcio. È stato rimesso a posto una parte per adeguarlo alle normative FIFA e UEFA in occasione della finale di Champions League del 2016 fra Atletico Madrid e Real Madrid. Invece si è voluti andare sulla strada, perché lo vogliono il Milan e l'Inter, di fare un'operazione puramente immobiliare e speculativa, cioè demolire lo stadio, costruirne un altro vicino sempre insieme fra i due fondi che sono americani, canadesi, non si è ben capito di chi siano questi fondi, e regalando 260.000 metri quadrati di terreno, di area di proprietà pubblica, e regalandogli oltretutto anche 100.000 metri quadrati di costruzione di hotel, di centro commerciale, di uffici. Un'operazione incredibile che è stata giustificata da una balla colossale, perché il sindaco l'ha ripetuto ancora ieri in un comunicato, dice: l'ho fatto per tenere qui le squadre che se no andavano fuori Milano. A parte il fatto che tutte le ipotesi delle squadre non esistevano, erano fasulle, lo sapevano tutti, e alla fine è arrivato anche il TAR a dire: guardate che non c'è nessuna ipotesi di costruire lo stadio a San Donato Milanese o a Rozzano. Per cui è un'operazione sbagliata nel metodo, sbagliata nella procedura amministrativa, sbagliata nei contenuti politici, con un danno enorme per la comunità milanese, perché se lei pensa che lo stadio è stato valutato 73 milioni e poco tempo fa, 2-3 mesi fa, è stato venduto il forum di Assago a 100 milioni, lei si rende conto della differenza. Quello contiene 50.000 per 45.000 persone, questo qui è uno stadio da 75.000 persone che nell'ultimo derby ha fatto un incasso di 8 milioni e mezzo, cioè con 10 partite si pagava lo stadio, quindi è un'operazione a favore solo dei due fondi americani, che poi sono in realtà canadesi. Il comune non ha mai voluto approfondire anche la proprietà, che è l'ultimo beneficiario di queste società, e alla fine ci ritroviamo in mezzo a un'inchiesta giudiziaria che poteva benissimo essere evitata con il buon senso e anche con una scelta politica oculata che metteva al centro l'interesse pubblico. Quindi c'è anche un rischio di conseguenze per i cittadini in termini di costi, di prezzi? Beh, per i cittadini ci sarà, se va avanti questo progetto, ci sarà un serio problema ambientale e di salute, perché da più parti si è sottolineato che un'operazione di queste dimensioni, pensi solo che per quanto riguarda gli scavi verranno mossi 1.700.000 metri cubi di terra, solo lo stadio di San Siro sono 180.000 metri cubi di ferro calcestruzzo che devono essere demoliti. Ci sarà un via vai di camion incredibile per circa 5 anni, quindi i danni saranno enormi. I cittadini hanno già un danno erariale notevole, perché lo stadio di San Siro è uno stadio che ha prodotto reddito per il Comune di Milano, da sempre produce un reddito. Se il Comune di Milano rinuncia a un reddito per i prossimi 200 anni per fare un'operazione semplicemente a favore di queste società, cioè l'affarismo domina sulla politica e sugli interessi pubblici. Che cosa auspica a questo punto e come pensate di agire come comitato? Beh, pensiamo che il SIG, che il comune dovrebbe bloccare i lavori. Il sindaco dovrebbe avere la dignità, visto che ha voluto lui per 5 anni tutte queste cose qui, ha persino fatto una campagna elettorale tenendo nascosto l'operazione San Siro agli elettori, salvo poi il giorno dopo essere eletto fare una delibera in cui la svendita, la demolizione di San Siro era cosa buona e giusta per il comune, secondo la sua interpretazione. Il sindaco dovrebbe prendere atto, chiudere la sua vicenda che è già durata anche troppo, ma soprattutto bloccare tutta l'operazione e ridiscuterla, perché così non va bene. Perché, ripeto, secondo me la magistratura sta facendo il suo mestiere, ma siamo solo all'inizio di una vicenda che sarà piena di sorprese.